Ad alta voce. Paolo Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. L'innominato dalla soglia diede un'occhiata in giro e al lume di una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia rannicchiata in terra nel canto il più lontano dall'uscio. «Chi t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci, sciagurata?» disse alla vecchia con un cipiglio iracondo. «S'è messa dove le è piaciuto», rispose umilmente colei. «Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso». «Alzatevi», disse l'innominata Lucia andandole vicino. Ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire, il comparir di quell'uomo, le sue parole aveva messo un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomitolata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi, se non che tremava tutta. «Alzatevi, che non voglio farvi del male e posso farvi del bene», ripeté il signore. «Alzatevi», tornò poi quella voce sdegnata d'aver due volte comandato in vano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e, giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso all'innominato e, riabbassandoli subito, disse: «Son qui, m'ammazzi!» «V'ho detto che non voglio farvi del male», rispose con voce mitigata l'innominato, fissando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. «Coraggio, coraggio», diceva la vecchia, «se ve lo dice lui che non vuol farvi del male». «E perché?» riprese Lucia con una voce in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indegnazione disperata. «Perché mi fa patire le pene dell'inferno? Cosa le ho fatto io?» «Vanno forse maltrattata? Parlate!» «Oh, maltrattata! M'hanno presa a tradimento, per forza! Perché? Perché m'hanno presa? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura! Cosa le ho fatto? In nome di Dio!» «Dio, Dio!» interruppe l'innominato. «Sempre Dio! Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta parola? Di farmi, E lasciò la frase a mezzo. «Oh, signore, pretendere! Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lasci andare, per carità, mi lasci andare. Non torna conto a uno che un giorno deve morire di far patir tanto una povera creatura. Oh, lei che può comandare, dica che mi lascino andare. M'hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna a... Dov'è mia madre? Oh, Vergine Santissima, mia madre, per carità, mia madre, forse non è lontana di qui, ho veduto i miei monti, perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa, pregherò per lei tutta la mia vita. Cosa le costa dire una parola? Oh, ecco, vedo che si muove a compassione, dica una parola, la dica, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia». «Oh, perché non è figlia di uno di quei cani che m'hanno bandito?» pensava l'innominato. «D'uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che ora godrei di questo suo strillare, e invece...» «Non iscacci una buona ispirazione», proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una certaria d'esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. «Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore, mi farà morire e per me sarà finita. Ma lei, Forse un giorno anche lei, ma no, no, pregherò sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provasse lei a patir queste pene... Via, fatevi coraggio, interruppe l'innominato con una dolcezza che fece strasecolar la vecchia. V'ho fatto nessun male? V'ho minacciata? Oh no, vedo che lei ha buon cuore e che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse, potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire, e invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia. Mi liberi, mi liberi. Domattina. Oh, mi liberi ora, subito. Domattina. Ci rivedremo, vi dico. Via, intanto fatevi coraggio, riposate, dovete aver bisogno di mangiare. Ora ve ne porteranno. No, no, io muoio se qualcuno entra qui, io muoio. Mi conduca lei in chiesa. Quei passi Dio glieli conterà. Verrà una donna a portarvi da mangiare, disse l'illuminato, e dettolo rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego e che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per assicurare una donnicciola. E tu, riprese poi subito voltandosi alla vecchia, falle coraggio, che mangi, mettila a dormire in questo letto e se ti vuole in compagnia, bene, altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra. Falle coraggio, ti dico, tienla allegra e che non abbia a lamentarsi di te. Così detto, si mosse rapidamente verso l'uscio. Lucia s'alzò e corse per trattenerlo e rinnovare la sua preghiera, ma era sparito. Oh, povera me, chiudete, chiudete subito. E sentito che ebbe accostare i battenti e scorrere il paletto, tornò a rannicchiarsi nel suo cantuccio. Oh, povera me, esclamò di nuovo singhiozzando. Chi pregherò ora? Dove sono? Ditemi voi, ditemi per carità, chi è quel signore, quello che m'ha parlato? Chi è? Chi è? Volete che io ve lo dica? Aspetta che io te lo dica. Perché vi protegge avete messo su superbia, eh? E volete essere soddisfatta voi e farne andare di mezzo me? Domandatene a lui. Se io vi contentassi anche in questo, non mi toccherebbe di quelle buone parole che avete sentito voi. Io son vecchia, continuò mormorando tra i denti. Maledette le giovani che fanno bel vedere a piangere e a ridere e hanno sempre ragione. Ma sentendo Lucia singhiozzare e tornandole minaccioso alla mente il comando del padrone, si chinò verso la povera rincantucciata e con voce raddolcita riprese: via, non v'ho detto niente di male, state allegra. Non mi domandate di quelle cose che non vi posso dire e del resto state di buon animo. Oh, se sapeste quanta gente sarebbe contenta di sentirlo parlare come ha parlato a voi. State allegra che ora verrà da mangiare e io che capisco nella maniera che va parlato ci sarà della roba buona e poi anderete a letto e mi lascerete un cantuccino anche a me, spero, soggiunse con una voce suo malgrado stizzosa. Non voglio mangiare, non voglio dormire, lasciatemi stare, non v'accostate, non partite di qui. No, no, via, disse la vecchia, ritirandosi e mettendosi a sedere su una seggiolaccia, donde dava alla poverina certe occhiate di terrore e d'astio insieme, e poi guardava il suo covo, rodendosi d'esserne forse esclusa per tutta la notte e brontolando contro il freddo, ma si rallegrava col pensiero della cena e con la speranza che ce ne sarebbe anche per lei. Lucia non s'avvedeva del freddo, non sentiva la fame e come sbalordita non aveva dei suoi dolori, dei suoi terrori stessi che un sentimento confuso, simile alle immagini sognate da un febbricitante. Si riscosse quando sentì picchiare e, alzando la faccia atterrita, gridò: «Chi è? Chi è? Non venga nessuno!» «Nulla, nulla, buone nuove!» disse la vecchia. «È Marta che porta da mangiare!» «Chiudete, chiudete!» gridava Lucia. «Subito, subito!» rispondeva la vecchia. E, presa una paniera dalle mani di quella Marta, la mandò via, richiuse e venne a posar la paniera su una tavola nel mezzo della camera. Invitò poi più volte Lucia che venisse a goder di quella buona roba. Adoprava le parole più efficaci, secondo lei, a mettere appetito alla poverina. Prorompeva in esclamazioni sulla squisitezza dei cibi, di quei bocconi che, quando le persone come noi possono arrivare a assaggiarle, se ne ricorda per un pezzo. Del vino che beve il padrone con suoi amici quando capita a qualcheduno di quelli e vogliono stare allegri. Ma vedendo che tutti gli incanti riuscivano inutili: «Siete voi che non volete», disse. «Non state poi a dirgli domani che io non v'ho fatto coraggio. Mangerò io e ne resterà più che abbastanza per voi, per quando metterete giudizio e vorrete ubbidire». Così detto, si mise a mangiare avidamente. Saziata che fu, s'alzò, andò verso il cantuccio e, chinandosi sopra Lucia, l'invitò di nuovo a mangiare per andar poi a letto. «No, no, non voglio nulla», rispose questa con voce fiacca e come sonnolenta. Poi, con più risolutezza, riprese: «È serrato l'uscio? È serrato bene?» E, dopo aver guardato in giro per la camera, s'alzò e, con le mani avanti, con passo sospettoso, andava verso quella parte. La vecchia ci corse prima di lei, stese la mano al paletto, lo scosse e disse: «Sentite, vedete, è serrato bene? Siete contenta ora?» «Oh, contenta, contenta io qui», disse Lucia, rimettendosi di nuovo nel suo cantuccio. «Ma il Signore lo sa che ci sono». «Venite a letto. Cosa volete far lì, accucciata come un cane? S'è mai visto rifiutare i comodi quando si possono avere?» «No, no, lasciatemi stare». «Siete voi che lo volete. Ecco, io vi lascio il posto buono, mi metto sulla sponda, starò incomoda per voi. Se volete venire a letto, sapete come avete a fare. Ricordatevi che v'ho pregata più volte». Così dicendo, si cacciò sotto vestita e tutto tacque. Lucia stava immobile in quel cantuccio, tutta in un gomitolo, con le ginocchia alzate, con le mani appoggiate sulle ginocchia e col viso nascosto nelle mani. Non era il suo né sonno né veglia, ma una rapida successione, una torbida vicenda di pensieri, di immaginazioni, di spaventi. Ora, più presente a se stessa e rammentandosi più distintamente gli orrori veduti e sofferti in quella giornata, s'applicava dolorosamente alle circostanze dell'oscura e formidabile realtà in cui si trovava avviluppata. Ora la mente, trasportata in una regione ancor più oscura, si dibatteva contro i fantasmi nati dall'incertezza e dal terrore. Stette un pezzo in questa angoscia. Al fine, più che mai stanca e abbattuta, stese le membra intormentite, si sdraiò o cadde sdraiata e rimase alquanto in uno stato più somigliante a un sonno vero. Ma tutto a un tratto si risentì, come a una chiamata interna, e provò il bisogno di risentirsi interamente, di riaver tutto il suo pensiero, di conoscere dove fosse, come, perché. Tese l'orecchio a un suono. Era il russare lento, arrantolato della vecchia. Spalancò gli occhi e vide un chiarore fioco apparire e sparire a vicenda,